Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sento dalla vostra radio che le richieste di adozione di bambini haitiani, prima rarissime, sono ora consistenti. Leggo Gramellini sulla stampa che dice che siamo colpiti dalla morte subitanea di tanti haitiani, ma non lo eravamo per il loro normale morire a rate. E faccio una considerazione. Chi si ricorda ora di coloro, circa 1 miliardo, che trascinano una breve e grama esistenza in Somalia, Bangladesh e decine di altri stati, ma non hanno la fortuna di essere stati colpiti da un terremoto? Sarebbe immorale e illegale stornare un po' degli aiuti finanziari agli haitiani, forse già troppi, per qualcun altro? D'accordo, non ci si può fare carico continuamente dei problemi di ciascuno e ciascuno ha il dovere di tentare di migliorare la propria condizione senza dipendere sempre dall'aiuto altrui. Ma i poveracci ora dimenticati devono sperare in un terremoto. Ivo. Caro Ivo, lei ha ragione nel sottolineare come la vastità di una tragedia, unita all'immediatezza e all'imprevedibilità, sono elementi tali da suscitare profonde emozioni, da far compiere scelte e approfondire valori che in altre occasioni non riuscivano ad emergere. Con un po' di cinismo potremmo affermare che un terremoto può suscitare maggiore solidarietà di una carestia che magari provoca più vittime, ma si prolunga nel tempo. È in fondo il cinismo dell'informazione, costretta a dare notizie di avvenimenti visibili e concreti a cui riesce più difficile raccontare situazioni che non hanno una causa immediata e visibile. Ma a questa distorsione di prospettiva può e deve rimediare la sensibilità umana. Non certo per iniziare una guerra tra i poveri o per dirottare da una parte o dall'altra gli aiuti umanitari, e nemmeno per frenare la solidarietà, magari pensando che in fondo, in situazioni come quelle di Haiti, di aiuti se ne stanno mandando anche troppi. Come ha giustamente scritto il direttore del Sole 24 Ore Gianni Riotta nel caso di Haiti, una donazione non è stavolta solo un gesto di carità verso i nostri ultimi fratelli, è un gesto concreto di solidarietà contro il caos che ci minaccia tutti, ad Haiti e qui. Scrivo a proposito dell'allarme lanciato dal presidente degli industriali di Prato, che accusa l'imprenditoria cinese di lavorare e produrre in totale clandestinità. Il quesito è integrare i cinesi nelle nostre regole e società, con i nostri criteri e redditi, oppure i nostri figli e i nostri precari dovranno utilizzare l'approccio cinese alle offerte di lavoro degli imprenditori, anche italiani. Temo che dovremo accettare che il mercato paghi salari cinesi per trovare lavoro in futuro. Se i nostri giovani si ribelleranno alle nuove schiavitù, io sarò in prima linea con loro per emendare il senso di colpa che mi attanaglia per aver consentito la deriva della nostra società. Valdimiro. Il problema dei cinesi non è solo a Prato, ma in tutta Italia. Aprono laboratori con i dati di cinesi che hanno il permesso di soggiorno e poi, quando è ora di pagare le tasse, lo chiudono, mentre il titolare di quei dati è già in Cina e si è fatto una casa. Loro si difendono dicendo che non rubano, non spacciano, non violentano, eccetera. Però aprono conti in banca usando documenti di altri. Luca. Emergenza cinesi a Prato. Ma di cosa stiamo parlando? Ho 38 anni e quando all'età di 8 andavo dai miei parenti, in periferia di Prato e Firenze, i cinesi c'erano già. Mia cugina, allora bambina, andava da loro in uno scantinato. Giocava con i loro bambini e le regalavano una cintura oppure una borsa. Per tutti questi anni tutti i fiorentini e i pratesi sapevano, ma non hanno fatto niente. Ormai i buoi sono usciti dal recinto, ormai è tardi, perché si è creato un sistema economico-sociale consolidato e difficilmente si può tornare indietro. Lettera firmata. Egregio direttore, in queste ultime settimane è riemerso da un lato il tema bamboccioni e dall'altro quello dei meritevoli. Ma chi sono i bamboccioni? Chi sono i meritevoli? I secondi che inglobano i primi? Vorrei che una volta tanto si ribaltasse il primato. Impariamo a parlare di chi emerge, si impegna, arriva. Mi piacerebbe ascoltare, forse un piccolo spazio nel vostro palinsesto si potrebbe trovare, la storia di chi compete seriamente con veri contenuti, al di là di sterili polemiche propagandistiche. I giovani in Italia ci sono e sanno essere bravi, molto, però non tarpiamo loro le ali prima di volare. se solo avessero un po' di quello spazio che i rotocalchi, le TV dedicano a chi vende fumo. Loro vendono sogni. Nella. Scrivo a proposito della proposta di legge che offre ai ragazzi la possibilità di iniziare a lavorare a 15 anni, sostituendo l'ultimo anno di scuola dell'obbligo con un anno di apprendistato. Mi domando che senso abbia. Uno finisce la terza media a 14 anni e se non vuole più studiare, lo parcheggiamo per un anno. Ma a dove? A scuola? O in un bar? Oppure all'oratorio? Che vadano a fare un anno di apprendistato tutti e poi, un po' più maturi e consapevoli, scelgano se continuare a lavorare o se cercare un indirizzo di studio che li possa soddisfare. Secondo me avremo meno ritiri e meno anni persi nel tentare di capire quale strada prendere. I giovani oggi non lavorano più in casa con i genitori e di conseguenza non hanno la più pallida idea di che cosa sia il lavoro. Mauro. Bersani ride e ironizza sull'eventuale candidatura di Brunetta a sindaco di Venezia. Ma si dimentica di Bassolino, che è stato ingloriosamente per un paio di anni ministro del lavoro con D'Alema e contemporaneamente sindaco di Napoli, con risultati evidenti per tutti. Fabio. Anche questa volta abbiamo avuto l'esempio di come in Italia non si riesca e non si voglia risolvere i problemi trovandone la causa principale e risolverli alla radice. A mio avviso, nel caso della lentezza dei processi, il provvedimento non sarà assolutamente efficace. È un'operazione di facciata, senza voler arrivare alla considerazione del provvedimento mirato. Una proposta non so quanto praticabile. Gli avvocati verranno pagati solamente a causa vinta e soprattutto verranno pagati al termine di tutti i procedimenti. Cosa si otterrebbe? Innanzitutto si avrebbero molti meno processi, visto che un avvocato preparato che sa di non portare a casa nulla da una causa inutile e perdente si guarderebbe bene dal prenderla in carico. Mentre adesso l'impressione è che si prenda di tutto, tanto nella lunghezza dei processi loro sicuramente si garantiscono un vitalizio. E poi si avrebbero processi molto più rapidi, visto che prima finiranno i procedimenti e prima incasseranno. Nel mondo del lavoro, per qualsiasi attività, in fondo funziona così. Se ad un'impresa viene proposto un lavoro che non è in grado di fare o di fare in maniera corretta, dice no. Valutazione rischi-benefici, rischio di impresa. Se si fa un lavoro, solitamente si viene pagati a lavoro ultimato. Damiano. Invito il senatore Di Pietro a tener duro contro il partito trasversale dell'impunità che ci farà precipitare dopo la Repubblica delle Banane. Però dovrebbe anche riflettere sul fatto che i governi di centrosinistra non fanno nulla. Perfino la benemerita legge sul fumo l'ha fatta il centrodestra. Se ci si vuole adeguare all'Europa, ci si dovrebbe ricordare che là i processi non solo si fanno, ma si fanno anche velocemente. Sarebbe stato più urgente adeguarsi sul costo della politica. Da noi si spende come Inghilterra, Francia e Spagna messe insieme. La macchina della giustizia è stata forse potenziata? Un ammiratore del Centro Italia. Io credo che una legge per abbreviare i processi debba essere fatta. Una legge che riduca le agevolazioni alla casta dei magistrati, la durata delle loro vacanze, la possibilità, se aspettano un figlio, di tenersi le cause anche se si assentano per più di un anno, cosa che è capitata a me per due volte in una causa civile. La possibilità di arrivare in tribunale alle 10 di mattina e tornarsene a casa il pomeriggio. La possibilità di fare errori enormi e non pagarne le conseguenze. Insomma, ci vuole una legge che li faccia lavorare come negli altri paesi civili e con la responsabilità del loro operato. Una legge che colpisca gli effetti, la lunga durata, senza eliminarne le cause, quanto detto sopra. Non importa che questa legge sia fatta ora o un domani, comunque sia, non servirà a nulla se non a favorire e mettere in giro un sacco di delinquenti e negare la giustizia a chi la merita. Maddalena. Caro direttore, Obama ha fatto un altro passo verso l'ignoto. Ha osato toccare le banche. Ieri ho partecipato alla riunione di un'industria e con me c'era una decina di piccoli e medi imprenditori. Non le sto a dire quale fosse il problema principale perché sarebbe superfluo, ma le posso dire qual è stato l'esito di qualche ora di pensieri. Nulla. Non si può fare nulla e lo strapotere degli istituti di credito può decidere del futuro delle nostre aziende. Le sembra una situazione normale? I governanti e le associazioni ci chiedono di accorpare le nostre aziende, ma non ci dicono che appena lo facciamo, le banche ci declassano al rango di nuovo cliente e tutti i vantaggi che ci eravamo guadagnati nel corso degli anni ce li possiamo dimenticare. Inoltre, anziché agevolare e snellire le procedure, aumentano tutte le commissioni, con il solo scopo di coprire i loro buchi che tutti conosciamo. Mi chiedo perché questo passo importantissimo e a mio avviso bellissimo del presidente Obama, e cioè il fatto di aver aperto una breccia nelle lobby bancarie, sia stato accolto con disprezzo. Moreno, Bologna. In questi giorni pagherò l'abbonamento alla RAI. Per questo mi sento in dovere di ringraziare Radio 24 che, senza chiedermi nulla, mi offre tante ore di ascolto piacevolissime. Voci umane e argomenti sempre interessanti e non musiche, musiche, musiche tutta la notte, come fa la radio della RAI. Mi permetto di chiedere solo una cosa importante. Per favore, non alzate il volume delle pubblicità. Attualmente è troppo il divario tra trasmissioni normali e inserti pubblicitari. L'esempio viene proprio dalla RAI, ma a loro è inutile chiedere qualcosa, tanto non rispondono mai e cestinano subito. Grazie per la compagnia che fate e la serietà del vostro lavoro. È vero che la passione si sente. Maria Teresa. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.